Orlando Furioso 500 anni. Cosa vedeva Ariosto quando chiudeva gli occhi? A Ferrara i capolavori di Mantegna, Botticelli, Raffaello, Tiziano e altri. Al Palazzo dei Diamanti fino all'8 gennaio. palazzodiamanti.it. Ad alta voce. Tommaso Ragno legge Conversazione in Sicilia di Elio Vittorini. Seconda puntata. Pioveva sul molo della stazione marittima dove il piccolo treno che avrei preso aspettava. E della folla di siciliani scesa dal battello traghetto, parte se ne andarono, il bavero della giacca rialzato, le mani in tasca, attraverso il piazzale nella pioggia. Parte restarono con donne e sacchi e panieri, come dianzi a bordo, immobili, in piedi, sotto la tettoia. Il treno aspettava di essere allungato coi vagoni che avevano passato il mare sul battello, e questo era una lunga manovra. E io mi ritrovai vicino al piccolo siciliano dalla moglie bambina che di nuovo sedeva sul sacco ai suoi piedi. Stavolta egli mi sorrise vedendomi, eppure era disperato con le mani in tasca, al freddo, al vento, ma sorrise con la bocca, di sotto la visiera di panno che gli copriva metà della faccia. «Ho dei cugini in America», disse. «Uno zio e dei cugini». «Ah, così», dissi io. «E in che posto? A New York o in Argentina?» «Non lo so», rispose lui, «forse a New York, forse in Argentina». «In America!» Così disse e soggiunse. «Di che posto siete voi?» «Io?» dissi. «Nacqui a Siracusa?» E lui disse. «No!» «Di che posto siete dell'America?» «Di New York!» dissi io. Un momento fumo zitti, io su questa menzogna, guardandolo, e lui guardando me dai suoi occhi nascosti sotto la visiera del berretto. Poi, quasi teneramente, egli chiese: «Come va a New York?» «Va bene!» «Non ci si arricchisce», risposi io. «Che importa questo?» disse lui. «Si può stare bene senza arricchire, anzi è meglio!» «Chissà», dissi io, «c'è anche lì disoccupazione». «E che importa la disoccupazione?» disse lui. «Non è sempre la disoccupazione che fa il danno, non è questo, non sono disoccupato io!» Indicò gli altri piccoli siciliani intorno. «Nessuno di noi lo è, lavoriamo nei giardini, lavoriamo!» E si fermò, mutò voce, soggiunse: «Siete tornato per la disoccupazione voi?» «No», dissi io, «sono tornato per qualche giorno». «Ecco», disse lui, «e mangiate la mattina?» «Un siciliano non mangia mai la mattina». E chiese: «Mangiano tutti in America la mattina?» Avrei potuto dire di no e che anche io di solito non mangiavo la mattina e che conoscevo tanta gente che non mangiava forse più di una volta al giorno e che in tutto il mondo era lo stesso, eccetera. Ma non potevo parlargli male di un'America dove non ero stato e che dopo tutto non era nemmeno l'America. Nulla di attuale, di effettivo, ma una sua idea di regno dei cieli sulla terra. Non potevo, non sarebbe stato giusto. «Credo di sì», risposi, «in un modo o in un altro». «È il mezzogiorno», egli chiese allora. «Mangiano tutti il mezzogiorno in America?» «Credo di sì», dissi io, «in un modo o in un altro». «E la sera?» egli chiese. «Mangiano tutti la sera in America?» «Credo di sì», dissi io, «bene o male». «Pane?» disse lui. «Pane e formaggio, pane e verdure, pane e carne». Era con speranza che lui mi parlava, io non potevo più dirgli di no. «Sì», dissi, «pane e altro». E lui, piccolo siciliano, restò muto un pezzo nella speranza e poi guardò ai suoi piedi la moglie bambina che sedeva immobile, scura, tutta chiusa sul sacco, e diventò disperato, e disperatamente, come dianzi a bordo, si chinò e sfilò un po' di spago dal paniere, tirò fuori un'arancia e disperatamente lo offrì, ancora chino sulle gambe piegate, alla moglie e dopo il rifiuto senza parole di lei, disperatamente fu avvilito con l'arancia in mano e cominciò a pelarla per sé, a mangiarla lui ingoiando come se ingoiasse maledizioni. «Si mangiano a insalata», io dissi, «qui da noi». «In America?» chiese il siciliano. «No», io dissi, «qui da noi». «Qui da noi», il siciliano chiese, «a insalata con l'olio». «Sì, con l'olio», dissi io. «È uno spicchio d'aglio e il sale e col pane», disse il siciliano. «Sicuro», io risposi, «col pane. Ne mangiavo sempre 15 anni fa, ragazzo». «Ah, ne mangiavate», disse il siciliano. «Stavate bene anche allora, voi». «Così, così», io risposi, e soggiunsi, «mai mangiato arancia e insalata voi?» «Sì, qualche volta», disse il siciliano, «ma non sempre c'è l'olio». «Già», io dissi, «non sempre buona annata. L'olio può costare caro». «E non sempre c'è il pane», disse il siciliano. «Se uno non vende le arance, non c'è il pane e bisogna mangiare le arance. Così, vedete?» E disperatamente mangiava la sua arancia, bagnate le dita nel freddo di succo d'arancia, guardando ai suoi piedi la moglie bambina che non voleva arance. «Ma nutriscono molto», dissi io. «Potete vendermene qualcuna?» Il piccolo siciliano finì di inghiottire e si pulì le mani nella giacca. «Davvero!» esclamò. E si chinò sul suo paniere, vi scavò dentro, sotto la tela, mi porse 4, 5, 6 arance. «Ma perché?» io chiesi. «È così difficile vendere le arance». «Non si vendono», egli disse, «nessuno ne vuole». Il treno intanto era pronto, allungato dei vagoni che avevano passato il mare. «All'estero non ne vogliono», continuò il piccolo siciliano. «Come se avessero il tossico, le nostre arance. E il padrone ci paga così, ci dà le arance e noi non sappiamo che fare. Nessuno ne vuole. Veniamo a Messina a piedi e nessuno ne vuole. Andiamo a vedere se ne vogliono a Reggio, a Villa San Giovanni, e non ne vogliono. Nessuno ne vuole». Squillò la trombetta del capotreno. La locomotiva fischiò. «Nessuno ne vuole. Andiamo avanti, indietro, paghiamo il viaggio per noi e per loro, non mangiamo pane. Nessuno ne vuole. Nessuno ne vuole». Il treno si mosse. Saltai a uno sportello. «Addio. Addio, nessuno ne vuole, nessuno ne vuole, come se avessero il tossico, maledette arance». M'ero appena gettato sul sedile di legno, nel treno in moto, che udii due voci nel corridoio parlare tra loro dell'accaduto. Non era accaduto nulla che fosse un vero accaduto, nessun fatto, nemmeno un gesto. Solo che un uomo, quel piccolo siciliano, mi aveva gridato dietro le sue ultime parole, la fine del suo racconto, mentre non c'era più tempo e il treno era in moto. Solo questo, delle parole. Ed ecco due voci parlare dell'accaduto. «Ma che voleva quel tipo?» Sembrava che protestasse. «Con qualcuno ce l'aveva, direi che ce l'aveva con tutti. Lo direi anch'io. Ero morto di fame. Se fossi stato giù, l'avrei fermato». Erano due voci da sigaro, forti e strascicate, dolci in dialetto. Parlavano in siciliano, in dialetto. Affacciai la testa sul corridoio e li vidi al finestrino. Due uomini di persona massiccia, tarchiati, in cappello e cappotto. Uno coi baffi, l'altro no. Due siciliani di tipo carrettiere, ma ben messi, floriti, presuntuosi nella nuca e la schiena, eppure con qualcosa di simulato e goffo, che forse in fondo era timidezza. «Due baritoni», io dissi tra me. E uno, in effetti, quello senza baffi, aveva voce piuttosto da baritono, cantante e sinuosa. «Non avresti fatto che il tuo dovere», egli disse. L'altro aveva solo voce rauca di sigaro, dietro i suoi baffi, ma dolce nel dialetto. «Naturalmente», egli disse, «non avrei fatto che il mio dovere». Io ritirai il capo dentro lo scompartimento, ma rimasi in ascolto, pensando, col variare delle voci, baritono e rauco, le due facce di loro, senza baffi, coi baffi. «I tipi così sono sempre da fermare», disse senza baffi. «Effettivamente», disse coi baffi, «non si sa mai. Ogni morto di fame è un uomo pericoloso, disse senza baffi. Come no, capace di tutto, disse coi baffi, di rubare, disse senza baffi. Questo va da sé, disse coi baffi, tirare coltellate, disse senza baffi, indubbiamente, disse coi baffi, e di darsi anche alla delinquenza politica, disse senza baffi. Si guardarono negli occhi, si sorrisero. Io lo vidi dalla faccia dell'uno e dalla schiena dell'altro, e così continuarono a parlare, coi baffi, senza baffi, di quello che intendevano per delinquenza politica. Pareva intendessero la mancanza di rispetto, di considerazione, dissero, e accusarono senza risentimento l'umanità intera, dissero che l'umanità era nata per delinquere. Qualunque classe, qualunque ceto, disse coi baffi e senza baffi, siano ignoranti, siano istruite coi baffi, siano ricchi, siano poveri e senza baffi, nessuna differenza, coi baffi, bottegai, senza baffi, avvocati, coi baffi, il mio pizzicagnolo a Lodi, senza baffi, a Bologna un avvocato. Di nuovo si guardarono negli occhi, di nuovo si sorrisero, di nuovo io vidi questo dalla faccia dell'uno e dalla schiena dell'altro, e li udii nel fragore della corsa tra gli aranci e il mare raccontarsi di quel pizzicagnolo a Lodi e di quell'avvocato a Bologna. «Vedi», disse coi baffi, «non hanno rispetto, non hanno considerazione», disse senza baffi, «e coi baffi a Lodi, il mio barbiere, senza baffi, il mio padrone di casa, a Bologna». E si raccontarono di quel barbiere a Lodi, di quel padrone di casa a Bologna, e coi baffi disse che una volta aveva fermato quel suo barbiere e l'aveva tenuto dentro 3 giorni, e senza baffi disse che aveva fatto lo stesso con un suo macellaio a Bologna, e io dalle loro voci sentii che erano soddisfatti, commossi di soddisfazione, quasi sul punto di gettarsi l'uno al collo dell'altro nella comune soddisfazione di questo che sapevano di poter fare, fermare e tenere dentro. E si raccontarono altri piccoli fatti, sempre senza risentimento, sempre con lamento, e alla fine con soddisfazione, e poi diventarono perplessi e si chiesero perché, dopo tutto, la gente li guardasse male. «Ma è perché siamo siciliani», disse coi baffi. «È questo perché siamo siciliani», disse senza baffi. Ragionarono del loro essere siciliani a Lodi ed essere siciliani a Bologna, e d'un tratto, senza baffi, lanciò come un grido di dolore, disse che al paese, in Sicilia, era anche peggio. Sì, è anche peggio, disse coi baffi, e senza baffi, a Sciacca, io, e coi baffi, a Mussumeli, io. Dissero in che modo a Sciacca e a Mussumeli fosse peggio, e senza baffi disse che sua madre non diceva quello che lui era, aveva vergogna di dirlo e diceva che era impiegato al catasto. «Impiegato al catasto», disse. «È questione di prevenzioni», disse coi baffi. «Lo so, vecchi pregiudizi», disse senza baffi, e dissero come era impossibile vivere al paese. Correva il treno con fracasso tra gli aranci e il mare e senza baffi disse «Che aranci!» E coi baffi disse «Che mare!» E tutti e due dissero come al loro paese era bello, a Sciacca, a Mussumeli, ma di nuovo dissero che non ci si poteva vivere. «Io non so perché vi torno», disse coi baffi. «E io lo so, forse», disse senza baffi, «e ho la moglie bolognese, i figli bolognesi, eppure», e coi baffi disse «appena ho il permesso, però, è infallibile ogni anno e senza baffi, e infallibilmente, specie in questo mese del Natale, e coi baffi, specie in questo mese, per averne che cosa poi, e senza baffi, farsi fraci delle budella, e coi baffi, farsi il sangue veleno». Qui la porta dello scompartimento fu chiusa con forza, direi sbattuta, da qualcuno che sedeva a me di faccia. Le voci si spensero, troncate di colpo nel rumore della corsa. E volava il treno per i boschi di aranci, in bocca ai monti, dinanzi al mare. Appariva e spariva un'alta neve, lontano. Il cielo era chiaro, pulito dal vento, senza più pioggia, sebbene ancora senza sole. E io riconobbi quella corsa, vidi che eravamo a metà strada tra Messina e Catania. e non udivo più le due voci fuori. Mi guardai attorno, ansioso di altri siciliani. «Non sentivate la pozza?» disse l'uomo a me di faccia. Era un siciliano, grande, un lombardo o normanno forse di Nicosia, tipo anche lui carrettiere come quelli delle voci sul corridoio, ma autentico, aperto e alto e con gli occhi azzurri, non giovane, un cinquantenne. E io pensai che mio padre ora somigliava forse a lui, sebbene mio padre lo ricordassi giovane e snello, magro, recitando il Macbeth, vestito di rosso e nero. Doveva essere di Nicosia o Aidone, parlava il dialetto ancora oggi quasi lombardo, con la U lombarda, di quei posti lombardi del Valdemone, Nicosia o Aidone. «Non sentivate la pozza», egli disse. Aveva una piccola barba pepe e sale, gli occhi azzurri, la fronte olimpica. Stava senza giacca nel freddo scompartimento di terza classe, un tipo carrettiere forse solo per questo, non per altro. E teneva arricciato il naso di sopra al pelo scarso dei baffi della barba, ma capelluto come un uomo antico, senza giacca, in maniche di camicia a piccoli quadri scuri e un panciotto enorme, marrone, con sei taschini. «La pozza? Che pozza?» io chiesi. «Come? Non la sentivate?» disse lui. «Non so», io risposi. «Non capisco di che puzza parlate». «Oh!» egli disse. «Non capisce di che puzza parlo». E si voltò verso gli altri nello scompartimento. Gli altri erano tre. Uno, giovane, con un berretto di panno sottile, avvolto in uno scialle, giallo in faccia, scarno, minuto, sedeva nell'angolo in diagonale a me, contro il finestrino. Uno, anche giovane, era sanguigno, forte, coi capelli crespi e neri, il collo nero, un popolano di città, certo un catanese, e sedeva all'altro capo del mio sedile, di fronte al malato. Il terzo era un piccolo vecchio senza un pelo in faccia e scuro, con la pelle coriacea, a scaglie cubiche come di tartaruga e incredibilmente piccolo e asciutto, una foglia secca. Egli era salito a Rocca Lumera e sedeva, se si può dire che sedesse, sull'orlo del sedile tra il gran lombardo e il malato, col bracciolo di legno che avrebbe potuto sollevare e non aveva sollevato, contro la schiena. A lui specialmente, voltandosi verso gli altri, si rivolse il gran lombardo. «Non capisce di che puzza parlo», disse il gran lombardo. Un suono venne come un soffio di fischio incipiente, morto, senza corpo di voce. Ed era il vecchietto che rideva. Ma egli non rideva ora. Rideva con gli occhi fin dal primo momento che era salito, con gli occhi acuti, vivi, ridendo fisso, guardando a sé dinanzi, me, il sedile, il giovane catanese, e ridendo, felice. «Incredibile! Non capisce di che puzza parlo», disse il gran lombardo. Tutti guardavano me ed erano ilari. Il malato con squallida ilarità silenziosa di malato. «Ah!» io dissi, ilare anch'io. «Non capisco davvero, non sento nessuna puzza». Allora intervenne il catanese. Si piegò, sanguigno, con la gran testa ricciuta, grosso nelle cosce e le braccia, enormi le scarpe, e disse: «Il signore parla della puzza che veniva dal corridoio». «Veniva puzza dal corridoio», dissi io. «Ma come? È incredibile!» gridò il gran lombardo. «Non la sentiva?» E il catanese disse: «Il signore parla della puzza di quei due, io dissi. «Quei due al finestrino facevano puzza, che puzza!» Udii di nuovo il suono morto, senza corpo di voce, del minuscolo vecchio, e vidi che la sua bocca era come una fessura di salvadanaio. Vidi anche il malato, impassibile nella sua silenziosa ilarità, entro il suo scialle, e vidi il gran lombardo quasi furente ma giulivo negli occhi, che sembravano gli occhi azzurri di mio padre. Capii allora che cosa la puzza fosse e risi. La puzza, dissi, la puzza! Tutti si fu allegri e soddisfatti, rappacificati, ma nel corridoio quei due tornavano dove erano stati bambini, al loro paese. È strano, dissi. Non c'è posto al mondo dove siano più malvisti che in Sicilia, eppure sono quasi tutti siciliani in Italia a fare questo mestiere. Tutti siciliani? Il Gran Lombardo esclamò. Davvero, io dissi. Sono 15 anni che giro l'Italia. Ho vissuto a Firenze, ho vissuto a Bologna, a Torino e vivo a Milano. E dovunque ho trovato un siciliano, era di questo mestiere. Già, così dice anche mio cugino che viaggia, osservò il catanese. E il Gran Lombardo disse, beh, del resto è comprensibile. Siamo un popolo triste, noi. Triste? Dissi io, e guardavo il vecchietto dall'ilare faccino, dai piccoli occhi formicolanti di larità. Molto triste, disse il Gran Lombardo, lugubre anzi, sempre pronti tutti a vedere nero. Io guardavo il faccino del vecchio, nulla dicevo, e il Gran Lombardo proseguì, sempre sperando qualcosa d'altro, di meglio, e sempre disperando di poterla avere, sempre sconfortati, sempre abbattuti e sempre con la tentazione in corpo di toglierci la vita. Sì, è vero, disse il catanese con serietà, e si mise a considerarsi le punte delle enormi scarpe. E io, senza distogliere lo sguardo dal faccino del vecchio, dissi, può darsi che sia vero, ma che c'entra questo con l'andare a fare quel mestiere? E il Gran Lombardo disse, credo che c'entri per qualche ragione. Credo che c'entri. Non so come spiegarlo, ma credo che c'entri. Che fa uno quando si abbandona, quando si butta via per perduto? Fa la cosa che più odia di fare. Credo che sia questo. Credo che è comprensibile se sono quasi tutti siciliani. Tommaso Ragno ha letto Conversazione in Sicilia di Elio Vittorini. A cura di Anna Antonelli, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio. Regia di Luigi Iavarone. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.